le cose ma non le vedi, quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Mi insegnerò l'amore, a recitare le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è basta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti. E 12 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa 87.9 e questa è l'ora di buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola in onda su Radio Onda Rossa tutti i martedì dalle 16 o giù di lì fino alle 17. Il numero di telefono di questa radio, che è lo 06 49 17 50, se volete chiamare e intervenire, a noi fa altro che piacere. E se volete invece intervenire, come dire, in maniera più filtrata, ora di buco @ondarossa.info. E cominciamo subito da un argomento che ormai è, come dire, fisso in questa trasmissione, cioè il concorso per selezionare nuovi insegnanti di tutti gli ordini di scuola, dalla materna fino alle superiori, che si sta espletando in questi giorni e che è stato indetto dal ministro Profumo, insomma, da settembre. Così, per chi non avesse mai sentito parlare prima, è un concorso sostanzialmente farsa, fatto per propaganda al ministro, nel senso che ci sono 11.000 posti, inizialmente c'erano 360.000 domande e soprattutto nessun bisogno di farlo, visto che c'erano già graduatorie dove poter prendere persone abilitate. Fatto sta che questo concorso, dopo una prova preselettiva di cui abbiamo molto parlato, e su www.ondarossa.info potete in podcast riascoltare le vecchie puntate, come sul nostro blog oradibuco.noblogs.org. Dopo appunto una prova preselettiva a dicembre, in questi giorni ci sono gli iscritti e abbiamo ricevuto il comunicato di un coordinamento di precari e precarie, in questo caso del coordinamento 3 ottobre del coordinamento di Milano e del coordinamento precari di Milano, che ci sembra insomma che abbia dei punti di interesse, per cui do una lettura veloce. Il concorsaccio va avanti senza le commissioni esaminatrici, è l'oggetto di questo comunicato. Nei giorni scorsi sono state espletate le prove scritte del concorsaccio voluto dal ministro Profumo e dalla maggioranza che ha appoggiato il governo Monti, senza però la presenza delle commissioni esaminatrici. Sono stati molti infatti docenti di ruolo che si sono rifiutati di prestarsi alla farsa di un concorso che vorrebbe selezionare nuovi docenti, mentre nelle graduatorie ad esaurimento esistono 140.000 docenti formati che sono già stati selezionati e lavorano da anni nelle scuole pubbliche. In mancanza di commissari, il Ministero ha tentato di reclutare nuovi esaminatori, riaprendo a esperti di comprovata esperienza e arrivando a modificare in corsa l'ordinanza ministeriale di reclutamento dei commissari e presidenti, cioè è stato, come dicevamo anche nell'ultima trasmissione, riaperto 3 volte il bando per commissari. È modificato ogni volta. E così, mentre con i soldi dei contribuenti l'Avvocatura di Stato dovrà rimediare ai diversi errori procedurali di questo concorsaccio, visto l'alto tasso di ricorsi da parte di candidati, commissari e presidenti, si prefigurano nuovi fronti per ulteriori contenziosi. Ci si chiede infatti: i commissari e presidenti di commissione selezionati in quanto esperti di comprovata esperienza potrebbero non essere docenti di ruolo e non essere abilitati all'esercizio della professione. E, nonostante tutto ciò, sarebbe possibile ammetterli come esaminatori per giudicare e valutare le prove di docenti abilitati aventi maggiori titoli ed esperienza? È corretto che le prove scritte siano state espletate in alcuni casi, come in Lombardia, senza la presenza di alcun membro della commissione giudicatrice? Il concorsaccio, avviato con pretesti e fini di evidente propaganda elettorale, continua il suo iter tra raffazzonate decisioni dell'ultimo minuto che creeranno ulteriori sborsi ai contribuenti, nonostante la presunta competenza vantata dal cosiddetto governo tecnico. Sì, questo, diciamo, il comunicato mette l'accento su qualcosa che già la volta scorsa tentavamo in qualche modo di evidenziare, e c'entra, almeno a mio parere, insomma, uno dei punti nodali, cioè, vista la difficoltà a reperire docenti di ruolo e comunque personale esperto o qualificato che si prestasse, stante anche l'irrisorietà della retribuzione, come abbiamo detto, a ricoprire il ruolo di commissario, con successive ordinanze e successive modifiche alle ordinanze di reclutamento dei commissari, diciamo così, l'asticella è stata sempre più progressivamente abbassata, fino al punto di coinvolgere sostanzialmente persone che dovrebbero essere docenti esperti, ma che sostanzialmente non devono più essere insegnanti di ruolo, e anche, diciamo, i titoli che devono presentare sono andati, diciamo, diventando sempre meno qualificati, e quindi sostanzialmente il problema che si pone è proprio quello che viene evidenziato dal comunicato, cioè ci sono persone che in qualche caso potranno essere laureati o specializzati, ma che non hanno mai insegnato e che non hanno una specifica esperienza culturale di ricerca sulle singole tematiche, che andranno a selezionare personale che invece ha un'esperienza fatta effettivamente quotidianamente nella scuola e che comunque ha maturato titoli e punteggio per poter accedere alle graduatorie. E questo, al di là delle considerazioni, diciamo, di buon senso e di carattere generale, evidentemente può e offrirà, io credo, materia di contenzioso, e ritengo che offra proprio materia di ricorso. Anche se vogliamo entrare nel merito delle tracce, no? Che abbiamo un po' guardato, le tracce oggetto delle prove, ricordiamo che sono 4 tracce, non a scelta, che vanno fatte tutte, sviluppate tutte, c'è proprio un modello con 20 righe, insomma, a quelle ti devi attenere, il che non sarebbe niente di male, perché poi, insomma, la capacità di sintesi, secondo me, fa parte della competenza. Però già leggendo, adesso non ce l'ho sotto mano, ma insomma non importa, già leggendole si capisce che poi lo sviluppo delle tracce dà alla fine una discrezionalità a queste commissioni già formate, come abbiamo visto, estremamente, insomma, vasta, per cui poi fa anche specie che mentre da un lato si tende a operazionalizzare, come si dice in statistica, tutto ciò che riguarda la valutazione, no? Con l'imbalzi, no? Per cui si arriva a creare, a fare dei criteri che dovrebbero essere oggettivi per la valutazione delle competenze di alunni e alunne, invece poi per quanto riguarda questo concorso, insomma, si passa da una prova preselettiva di cui abbiamo ampiamente parlato, che veramente è la qualunque sotto tutti i punti di vista, che non ha fra l'altro nemmeno attinenza con nessuna materia specifica alla fine, con tutta e con nessuna, ha un criterio di valutazione assolutamente soggettivo, per cui ci saranno sicuramente disparità forti, insomma, nelle selezioni. Sì, per capirsi, per esempio, il quesito di storia rivolto ai docenti di italiano e storia, che è diverso, quindi che insegnano medie, tecnici, professionali e bienni dei licei, in questi casi c'è un unico quesito di storia e si richiede il commento ad una frase di Marc Bloch, famoso storico francese, eccetera, e si chiede proprio si commenti. Ecco, ora il commento è chiaro che ha una, insomma, cioè non importa nemmeno spiegarlo, insomma, che è soggettivo un commento, e quindi la correzione di questo lo diventa altrettanto. Sì, anche infatti meno soggettivi per quanto riguarda la prova d'italiano. Abbiamo avuto modo di leggere le tracce, in particolare mi ha colpito una che chiede di diciamo elaborare un percorso didattico che si incentri sulla tematica del rapporto tra lingua scritta e lingua parlata, e obiettivamente sono 20 righe di testo disponibili. È vero, e sono d'accordo, che la sintesi è importante, indispensabile, però ci si domanda obiettivamente come e da chi possa essere valutato un percorso didattico del genere, soprattutto se, come dicevamo prima, è persona che non ha particolare esperienza di insegnamento. No, anche perché tutti risponderanno a questo, tutti e tutte, ognuno scriverà un percorso didattico nel rapporto tra lingua scritta e lingua parlata. A quel punto diventa piuttosto pelosa la decisione dei criteri su quale sarà corretto e quale sbagliato. No, diventa importante anche che chi corregge abbia una, diciamo, struttura cognitiva e culturale in grado di valutare effettivamente il percorso, almeno a mio modo di vedere, e questo non mi pare possa essere garantito dai criteri di selezione che sono stati esplicitati nel bando. Non so, diverso è invece ovviamente per alcune materie scientifiche, qui c'è chi ha visto quelle di matematica, ma nicchia, non ha niente da dire. Mi sono piaciute. Comunque, insomma, questo era, e poi, insomma, magari vediamo. Sì, una parola sola anche rispetto proprio alla struttura della prova, perché sembra un pochino, riflettevamo prima sullo schema di quella che è la terza prova dell'esame di maturità, però forse chi ha elaborato i quesiti ha anche diciamo molto presente la struttura invece del vecchio tema, perché sono in generale, come caratteristica globale, prove che richiedono una per l'altra uno sviluppo notevole proprio in termini di articolazione, perché sono tematiche complesse, anche molto generali, ed è obiettivamente difficile, essendo poi obbligatorio rispondere a tutte e quattro le prove, diversamente dai concorsi precedenti, l'ultimo, non c'è possibilità di scelta, ma vanno necessariamente svolte tutte e quattro le prove secche, mi verrebbe da dire. Facevi a scuola il tema tutto fatto bene, sintatticamente preciso, eccetera, senza errori, e poi il professore o la professoressa ti dava 4 perché è riuscito fuori tema. Sì, e fra l'altro, insomma, invece a noi docenti di oggi cercano di dirci che il tema è una forma superata, che bisogna fare altri tipi di testi, eccetera, eccetera, poi però sostanzialmente ripropongono dei temi. Sì, no, infatti ripropongono dei temi che però hanno la possibilità di articolazione di 20 righe e quindi, insomma, c'è obiettivamente una discrasia. Io non avrei mai voluto trovarmi di fronte a una di queste prove, ecco. Senza pretesa di voler strafare, io dormo al giorno 14 ore, anche per questo nel mio rione godo la fama di fannullone, ma non si sdegni la brava gente se nella vita non riesco a far niente. Tu vaghi per le strade quasi tutta la notte, sognando mille favole di gloria e di vendette. Racconti le tue storie a pochi uomini ormai stanchi, che ridono fissandoti con vuoti sguardi bianchi. Tu reciti una parte fastidiosa alla gente, facendo della vita una commedia divertente. Ho anche provato a lavorare, senza risparmio mi diedi da fare, ma il sol risultato dell'esperimento fu della fame un tragico aumento. Non si risenta la gente per bene se non mi adatto a portare le catene. Ti diedero lavoro in un grande ristorante, a lavare gli avanzi della gente elegante, ma tu dicevi il cielo è la mia unica fortuna e l'acqua dei piatti non rispecchia la luna. Tornasti a cantar storie lungo strade di notte, sfidando il buon umore delle tue scarpe rotte. Non sono poi quel cagnaccio malvagio, senza morale, straccione e randagio, che si accontenta di un osso bucato, con affettuoso disprezzo gettato. Al fannullone sa battere il cuore, il cane randagio ha trovato il suo amore. Pensasti al matrimonio come al giro di una danza, amasti la tua donna come un giorno di vacanza, hai preso la tua casa per rifugio alla tua fiacca, per un attaccapanni a cui appendere la giacca, e la tua dolce sposa consolò la sua tristezza, cercando tra la gente chi le offrisse tenerezza. È andata via senza fare rumore, forse cantando una storia d'amore. La raccontava ad un mondo ormai stanco, che camminava distratto al suo fianco. Lei tornerà in... Questo era il fannullone di De André, che insomma almeno per il titolo è adeguato a dei lavoratori e delle lavoratrici dello Stato, insomma mi pare evidente. E passiamo subito a un altro argomento che introdurrà qua il mio compagno accanto a me. Sì, parliamo della, di religione, o meglio dell'attività alternativa all'insegnamento dell'ora di religione, l'ora cattolica, e ne abbiamo già parlato e ne vogliamo discutere con un nostro interlocutore, Daniele, che ha delle proposte e vuole comunicarcele, condividerle con noi, quindi anche agli ascoltatori attenzione, perché sarete chiamati a rispondere delle vostre attività. Pronto? Ciao. Ciao Daniele. Non è una mia proposta, ma è una situazione che si sta evolvendo rapidamente. E al momento è curata soprattutto dai COBAS della scuola. Sì, e infatti allora la questione la conoscono già i nostri ascoltatori, è che vista l'ora di religione, che è ormai obbligatoria in tutti gli ordini di scuola, un'attività alternativa, cioè obbligatoria, e l'idea è quella di vedere se nelle scuole i docenti sanno, che i presidi anche sanno, che devono prevedere un'attività alternativa a chi, a quegli studenti e quelle studentesse che non si vogliono avvalere dell'ora di religione cattolica. E per quanto tu ne sappia, ci sono delle scuole che non prevedono l'ora di attività alternativa? Purtroppo sì. Però dovrei fare un breve excursus storico, nel senso che in realtà l'ora alternativa, l'ora di religione è un'eredità del, di fatto del fascismo, della riforma gentile, ovvero lo Stato liberale in realtà non prevedeva una, un'ora di religione. Poi il fascismo, venendo al potere, ha iniziato chiaramente a sponsorizzare l'ora di religione, che è rimasta però per molto tempo teoricamente fuori dalla scuola. Sì, infatti noi abbiamo dedicato una trasmissione sulla storia di come l'insegnamento della religione è entrata dentro le scuole, alla scuola pubblica, alla scuola statale, quindi il concordato, i concordati. Esattamente, i fatti lateranensi, sì. Per cui è un'eredità del fascismo di fatto, e non ne riusciamo a venire fuori. Anche perché politicamente non può, diciamo, di fatto non è messa in discussione nemmeno l'ora, l'insegnamento religioso negli stessi piani di, elettorali dei vari partiti evidenziato. Va bene, però venendo a noi, perché sennò chiaramente ci perdiamo, di fatto era una materia, anzi era una materia obbligatoria fino alla metà degli anni Ottanta. Teoricamente era fuori, perché l'insegnante di religione, comunque essendo nominato dalle varie curie, in via teorica non faceva parte del corpo docente. Poi alla metà degli anni Ottanta c'è stata la nuova intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, che invece prevedeva anche l'ora alternativa, anzi con vari tipi di attività, l'uscire fuori dalla scuola, che era prevista già prima degli anni Ottanta. Erano dispensati di fatto solo chi non era di religione cattolica, e alla metà degli anni Ottanta, appunto, brevemente, l'intesa prevedeva anche attività alternativa, anche perché nell'orizzonte di quegli anni in realtà non si pensava che molti studenti e famiglie aderissero appunto a questa offerta alternativa. Negli anni è andata in realtà crescendo, anche perché di fatto la società italiana ormai è multiculturale in due sensi, nel senso che sono sia aumentati coloro che non sono di religione cattolica, e poi sono aumentate anche le persone che sono atee ed agnostiche. Mm-hmm. E poi chiaramente il discorso in realtà è comunque molto complesso. Poi alla metà del, diciamo 7-8 anni fa, c'è stato l'immissione in massa e ufficiale degli insegnanti di religione cattolica. Al tempo stesso c'è stata l'evoluzione, nel senso che le attività alternative, che prima erano fatte solo con i fondi di istituto, in realtà adesso vengono finanziati anche dal MEF, dal Ministero dell'Economia e Finanza, attraverso dei fondi regionali, che in realtà sarebbero sia per i precari diciamo di religione, che quelli dell'ora alternativa. Poi c'è stato anche il ricorso di varie associazioni, per cui si è arrivato alla sentenza del Consiglio di Stato, che comunque ha dovuto mettere in rilievo che l'attività di fatto è obbligatoria. Se se viene chiaramente richiesta da studenti e famiglie. Certo, quindi noi attualmente abbiamo circa 25.000 insegnanti di religione, esatto, cattolica, metà dei quali probabilmente è di ruolo e metà... No, circa 25.000 di ruolo. Ah, di ruolo. E anzi stanno crescendo nonostante i tagli, poi le cattedre effettive probabilmente saranno anche di più. Certo. Comunque all'incirca sono 25.000 insegnanti di religione di ruolo. Che hanno la loro cattedra e possono insegnare nelle classi anche formate da un solo alunno. Esatto. Qualora... Esatto. E quindi qual è l'idea? La stessa cosa chiaramente funziona anche per un alunno, anche per le classi costituite da alunni che non si avvalgono dell'ora, certo, di religione. Quindi con basta l'unica un alunno. Diversità, sì, che mentre per quanto riguarda religione effettivamente la classe può essere costituita da un alunno, per quanto riguarda le attività alternative le classi possono essere fuse, accorpate, sia in orizzontale che in verticale, e chiaramente sempre basta un alunno. Però per essere chiari, se ci sono due classi di orario parallelo, perché in realtà, certo, di questo si tratta, formeranno un'unica classe. Certo, per quindi cui uno più uno farà due. Quindi cosa si può dire? Innanzitutto lanciare, come dire, questo, il primo messaggio è che in tutte le scuole deve essere prevista l'ora alternativa. Esattamente. E quindi o sono i docenti che nel collegio docenti, quindi nel POF, approvano dei progetti che loro presentano, o sono le famiglie, gli studenti e studentesse che pretendono. Nel senso che poi proporranno dei propri progetti se non c'è nessun altro, e questa proposta sarà portata comunque al collegio dei docenti e poi seguirà il suo iter. Quindi diciamo l'idea è quella di creare una mappa di quello che succede nelle scuole, quantomeno a Roma, in provincia, e per quanto riguarda le attività alternative proposte nelle varie scuole, e diffonderle. Esattamente. Tu hai qualche esperienza nella tua scuola o di altre, di che tipo di argomenti, di materia, di contenuti? In realtà non c'è un vincolo, l'importante è che la disciplina chiaramente poi è scelta dalla scuola, non sia curriculare. E quindi per il resto non c'è nessun altro limite. E quindi diciamo si può... mi parlavi di storia della... Un attimo però, perché sì. Che vuol dire che non sia curriculare? Cioè che non sia una delle materie insegnate nella scuola dagli altri insegnanti. Per fare un esempio, musica può essere insegnata alle superiori, o storia della musica, chiaramente non un istituto musicale, mentre in realtà è insegnata ad esempio in tutte le medie, e nella media non potrà essere scelta la musica ad esempio. No, certo, io per esempio insegno in un liceo linguistico e quindi da me l'ora alternativa è economia, perché in quell'ordinamento economia non è prevista, mentre ovviamente in un tecnico commerciale dove fanno economia non potrebbe essere quella la materia alternativa, insomma questo è... O comunque può essere anche una parte di programma per questa materia alternativa che non fa parte della materia comunque curriculare. Posso fare il caso, diciamo, della mia scuola, che è psicologia dell'arte, non è storia dell'arte. Certo. Per cui la graduatoria è la stessa, perché per storia dell'arte ha 61 storie dell'arte, per intenderci. Però chi fa psicologia dell'arte viene chiamato attraverso appunto la graduatoria di A061 storia dell'arte. Comunque la cosa che mi sembra importante, insomma, che mi sembra anche il caso di sottolineare, è che laddove la scuola non avesse istituito l'ora alternativa di religione, gli studenti e le famiglie possono richiederla, e a quel punto, presentando un progetto, è quel progetto di quello che, dell'attività che loro desiderano fare, che verrebbe portato all'attenzione del consiglio del collegio docenti, e quindi c'è l'obbligo da parte della scuola di istituire l'ora alternativa dietro richiesta. Chiaramente ci sono state anche alcune sentenze, in particolare una di Padova, che appunto ha condannato la scuola, mi sembra una della scuola elementare, dove è ancora più grave questa problematica, perché appunto non attivava l'ora alternativa. E soprattutto alle elementari e alle medie c'è il problema delle famiglie, che anche qualora che sia in prima o un'ultima ora è sempre problematico, chiaramente, per l'orario, però chiaramente c'è questa idea che in realtà l'attività è pagata dal fondo d'istituto, è qualcosa di inutile, e quindi bisogna passare attraverso, chiaramente, studenti e soprattutto genitori che appunto fanno pressione nelle rispettive scuole per l'adozione della materia alternativa. E quindi, dicevo, per concludere, diciamo, questa mostruosità, così io la ritengo, dell'ora di religione cattolica nelle scuole dall'infanzia fino alle superiori, con, come dire, l'abnorme incarico assegnato dalla Curia invece che dallo Stato, con gli stipendi pagati da noi dallo Stato, può prevedere, grazie ai ricorsi, sentenze eccetera, che la stessa cosa venga fatta per l'ora alternativa, e dunque questo per noi rappresenta una possibilità di dare dei contenuti che sono l'opposto dei contenuti che vengono messi dentro l'ora di religione, che non sono più, non è più l'ora in cui non si fa nulla, si studia per le altre materie o si parla dei problemi di attualità, ma è proprio un indottrinamento della religione cattolica, e così vengono scelti gli insegnanti dalla Curia, e anche un'opportunità, quindi, è di dare invece un contenuto di alto valore, di uno spessore. Poi, all'interno della scuola, anche il punto di vista di che è precario, perché nel frattempo, esatto, soprattutto partendo da Bologna, l'Emilia Romagna, chiaramente i COBAS, i precari, in particolare appunto dell'Emilia Romagna, ho fatto pressione per il riconoscimento del punteggio, che in realtà il punteggio è totale. È un po' come funziona per il sostegno. Per il sostegno vieni chiamato per la materia curriculare, poi ad esempio nelle superiori ci sono quattro graduatorie, quattro aree, scientifica, umanistica, e tu ci sei per esempio nell'umanistica perché stai per A050 italiano oppure A061 storia dell'arte, e fa il punteggio contemporaneamente. Qua invece chiaramente il punteggio lo fai solamente sulla materia curricolare da dove vieni chiaramente chiamato. Al momento chiaramente l'attività alternativa dà solamente punteggio alla graduatoria, di fatto sono cattedre vuote, quindi in realtà adesso è nato un vuoto legislativo, cattedre vuote dove i precari possono fare punteggio, appunto i COBAS premono su questo fatto, è chiaramente tutto da costruire, perché al tempo stesso c'è una netta diversità sia tra gli studenti, perché comunque per religioni, al di là di tutto, l'attività di religione continua, chiaramente poi come tutte le materie ci possono essere delle discontinuità. Per chi fa la materia alternativa in realtà non c'è questa continuità, non ci sono supplenze annuali, quindi più che altro è casuale che ci sia una continuità fatta ad esempio da un precario o a volte da un sovrannumerario, perché spesso le cattedre di attività alternative adesso sono coperte in alcuni casi anche da sovrannumerari. Senti, una domanda, perché nella scuola dove lavoro non è mai capitato, noi abbiamo da tanti anni la stessa insegnante che fa educazione musicale, un liceo classico, ma nel caso che un professore di religione si ammala, insomma si assenta, la curia manda il supplente, no? Ma nel caso che un professore che lavora tutto l'anno anche su una cattedra completa per la materia alternativa si ammala o si assenta? Intanto sicuramente se è il precario chiamato verrà automaticamente chiamato un altro precario. Però potrebbe... Il problema è che non è chiaro questa cosa per quando c'è il sovrannumerario, cioè di solito un insegnante DOP, per cui si rischia che non venga chiamato nessuno. Già succede normalmente per le cattedre, chiamiamole così, curriculari, questo pericolo c'è soprattutto in questi casi. Anzi, poi un'altra cosa è che dovremmo cominciare a premere che chiaramente la nomina avvenga subito, immediatamente, invece spesso queste cattedre rimangono non coperte per uno, due o anche tre mesi. Nel caso ad esempio della mia scuola, quest'anno è stata coperta solamente a dicembre, e la cosa non dovrebbe accadere perché dietro, tenete conto, ci sono problemi che possono essere riconducibili alla, diciamo, alla coscienza personale, per cui le persone non possono essere abbandonate in corridoi o in aula magna, oppure vengono di nuovo riportati in aula, nella stessa aula dove si svolge l'ora di religione. In realtà per ottica il percorso dovrebbe essere separato. Certo. Senti Daniele, noi per ora ti ringraziamo per questo tuo intervento e poi insomma ci teniamo in contatto anche per questa iniziativa, insomma, rivolta all'inserimento dei precari e poi per parlare ancora dell'ora alternativa. Per ora ti ringraziamo molto. Perché potrebbe essere un'occasione per recuperare posti di lavoro, soprattutto in questo momento così difficile per i precari. Molte graduatorie in realtà ormai non hanno più supplenze annuali, so io di alcuni casi di colleghi che non insegnano, certo, da uno o due anni. Anzi, sarebbe bene monitorare i vari progetti e pensare in qualche modo a una ricollocazione, nel senso nel dare la preferenza a alcuni progetti legati a graduatorie ben precise. Però qua chiaramente dobbiamo da un lato monitorare le varie offerte e anche capire quali sono le graduatorie in difficoltà e chiaramente nei nostri limiti magari rilanciare delle attività alternative mirate a questo, alla ricollocazione professionale, cosa che lo Stato al momento si è completamente disinteressato, si è limitato alla salva precari, ma è stato un elemento per tacitare in qualche modo le proteste e i vari precari. No, questo non c'è dubbio, Daniele. Scusa se ti interrompo, ma chiudiamo qua perché ci finisce la trasmissione. Sicuramente. comunque nel senso, non c'è, avremo modo di riparlarne. Ti ringraziamo per adesso. Niente. Ciao. Ciao. Io bien chers frères et sœurs. Annuncio vobis gaudium magnum. Questa era la sigla di una trasmissione di questa radio che non c'è più, ma la sigla è quanto mai d'attualità. Insomma, salutiamo Ratzinger con questa. Lo salutiamo proprio per sempre, in qualche modo. Cardinale Ratzinger. Eccoci in voce, Radio Onda Rossa, l'ora di buco. E su questa questione dell'ora alternativa, che in effetti insomma, ci ha dato una panoramica Daniele, ma noi ne stiamo parlando, ci sono implicazioni di valutazione nei scrutini, insomma implicazioni. Io volevo, poi noi concludiamo quando parliamo di questa questione con un accorato appello: non avvaletevi, no? non avvaletevi e non fate avvalere. E fra l'altro molte persone, io quando avevo i figli che andavano a scuola l'ho visto, che hanno di religiose, insomma credenti eccetera, che non facevano avvelere proprio i figli e le figlie, perché dice già fa poveretto, già fa 2 ore di catechismo a settimana, dice perché gli devo far fare quello. Succedeva questa cosa, però evidentemente poi è rientrata. Sulla questione del, cioè è molto complicata la questione dell'ora alternativa, perché appunto ci sono scuole che la programmano, nella scuola dove lavoro io c'è sempre quella con la stessa insegnante da 15 anni. E che succede però? Che forse ho capito male, ma a un certo punto Daniele ha detto vengono questi progetti vengono pagati con i fondi di istituto. In realtà queste, che a volte formano proprio delle cattedre complete, venivano pagate dal Ministero del Tesoro da quando poi ci fu il pagamento, cioè le scuole con l'autonomia facevano i contratti direttamente loro, come ancora adesso, sulle supplenze annuali, quindi anche queste rientravano in questa categoria, però venivano poi mandati col contratto cartaceo, come si diceva, e quindi poi perché era una fattispecie particolare, lo trattava non telematicamente il tesoro ma a livello cartaceo. A un certo punto che successe? Che ci fu un interregno tre anni fa circa, per cui questo contratto cartaceo non veniva più accettato. Ci fu una modifica per cui bisognava, ve la faccio breve, fare prima il contratto telematico, poi validarlo, trasmetterlo telematicamente eccetera eccetera, per cui questi contratti, avendo ovviamente una classe di concorso, come si diceva prima, una materia che non era presente dentro la scuola, venivano scartati, quindi non venivano pagati. Allora a questo punto le scuole, qualcuna forse forse avrà rinunciato, qualcuna se ne pagava coi fondi delle supplenze. E lì un altro problema grosso, perché sono anni che i fondi delle supplenze non vengono rimpinguati sufficientemente, per cui i supplenti temporanei prendevano soldi, i soldi molto in ritardo. Quindi se gli togli poi 10 mensilità, no, di un insegnante di questo tipo, ecco lì che ti salta tutto il bilancio. Però questo problema è risolto. È risolto perché hanno adesso, dall'anno da quest'anno, mi pare da quest'anno, sì, o da, mi ricordo se dall'anno scorso, insomma, adesso si può, c'è una voce particolare per cui queste cose, insomma, le accettano anche a livello, e quindi per fortuna hanno sgravato i bilanci delle supplenze, che poi, fra l'altro, per inciso, adesso i supplenti temporanei vengono pagati direttamente dal tesoro, con la storia del cedolino unico dove confluisce tutto, esame di maturità, questo tipo di le supplenze temporanee e i pagamenti, se ci saranno, del fondo d'istituto. No, è importante appunto specificare che è risolto, perché insomma, se c'è qualche collega, qualche insegnante che ci ascolta, o anche qualche ATA, ma qualche insegnante ancora di più perché partecipano a collegi docenti, siccome a me personalmente, insomma, è capitato di lavorare in scuola dove non c'era l'ora alternativa e si diceva ma non ci sono i soldi, questa storia non ci sono i soldi è falsa, cioè nel senso che c'è una voce a parte, non va sul resto della spesa della scuola, si possono chiedere questi fondi, le scuole che lo fanno li ottengono. Si devono chiedere, è automatico, cioè, tu vengono... puoi anche fare una, fai un contratto come li fai per le, ti manda il provveditorato un supplente annuale per 5 ore, una cattedra, ok, fino a giugno o fino a agosto che ormai è, e tu fai il contratto, non è che c'è da chiedere fondi, e funziona alla stessa maniera, quindi proprio è come non ci sarà più la richiesta di fondi per le supplenze temporanee, perché si manda direttamente il contratto al Ministero del Tesoro come per qualsiasi supplente annuale. Quindi insomma, se un genitore o un insegnante o chiunque in una scuola sottolinea non c'è l'ora alternativa e gli viene risposto ma non ci sono i soldi, sappia, questa risposta è falsa. Che questa cosa, io sottolineo sempre lo stesso punto, la sappiano soprattutto i genitori, anche perché effettivamente la possibilità, la richiesta di esonero dall'ora di religione cattolica va formulata all'atto dell'iscrizione, e siccome le iscrizioni si stanno chiudendo con la fine di febbraio, se può non essere sbaglio, modificata fino alla conferma, però però insomma, nel momento in cui iscrivete, che i uno figli, si può convertire come mag di cristiano all'anno si può convertire improvvisamente a un'altra religione, che ne sai, no vabbè, mo ci scherziamo, perché per noi poi le religioni stanno tutte sullo stesso piano, non è che facciamo distinzioni, per cui a un certo punto da febbraio appunto a giugno, ai primi di luglio quando conferma, può avere un cambiamento, no, di convinzione, e quindi perché devi fare religione cattolica? Però nel momento in cui vi iscrivete, come dicevamo prima, non avvaletevi, e se non vi avvalete controllate che vi sia data la possibilità effettivamente di fare l'ora alternativa e non solamente l'uscita anticipata o altre cose, insomma. Sì, come dire, stop indottrinamento al momento di portare avanti questa campagna, anche perché di questo si tratta. IRC significa istruzione religione cattolica e niente altro, non è... andate all'inferno, e questo lo sappiamo proprio, abbiamo fatto delle ricerche, se non fate religione a scuola non andate all'inferno. Detto questo, a martedì prossimo alle 16 su Radio Onda Rossa, l'ora di buco. Proseguono le trasmissioni adesso con il martedì autogestito da femministe e lesbiche, poi la